because I work 12 hours a day. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Vabbè, oggi sorpresa totale, sono vagamente impreparato. Esagerato. Qui con me Pierluigi Pardo. Eccoci, come va? Si è manifestato. Finalmente, finalmente. Mi ha chiesto, ma quello buche. È il Corriere della Sera di oggi, sì, te lo passo sì, in me lo diretta. Passi, me lo passi, me lo passi, con una nuova veste grafica. Com'è? Eh? Ti piace? Beh, più piccolo, praticamente sono... Repubblica fa... No. Non si può dire, no, nel senso come formato, era un discorso di formato, ci favorevole a formato tabloid, mi è sempre piaciuto. Questi sì, personali, sai, c'è chi piacciono le bionde, c'è chi piacciono le more, c'è chi piace il formato tabloid. Sì, no, diciamo che da questo punto di vista a noi piace sia il tabloid che il. Un buon Milan ieri sera. Un buon Milan nel primo tempo. Concesso molto, primo tempo, concesso molto, la ricetta 2-0, un buon Pucciarelli, poi reagito. No, beh, buon Milan per la reazione. Sicuramente sì. Credo che se ieri pomeriggio a quest'ora avessimo chiesto ai tifosi del Milan se erano pronti a firmare un punto ad Empoli, in pochi avrebbero detto di sì. Per me sono su tutte le tabelle, sono due punti persi, con tutto il rispetto per l'Empoli, però insomma la cosa positiva per il Milan è stata la reazione. Poi sappiamo che ci sono stati episodi arbitrali che potevano condizionare la partita, l'Empoli poteva vincere, nel finale poteva anche perdere. All'azione di una partita approcciata male. Male, malissimo. No, cioè, se prendi gli schiaffi in casa con la Juventus ti aspetti una squadra differente. Come reazione, ma mi pare che lo stesso Inzaghi non si sia particolarmente nascosto. No, in questo è stato onesto, ma devo dire che l'aspetto difensivo è quello che in qualche modo preoccupa, perché insomma è quasi un Milan zemaniano, subisce veramente troppi gol, 8 gol in 4 partite, ha sempre subito almeno un gol in tutte le gare. Insomma, mi sembrano troppi per una squadra di alta classifica, soprattutto per quello che è the Italian way, no? L'idea che comunque alla fine in Italia chi vince, chi fa bene, soprattutto chi subisce poco. Esatto. Manca Alex, non è una giustificazione, no, è soltanto però, un dato di cronaca, però come fase difensiva il Milan ancora non c'è. Ce l'abbiamo Inzaghi di ieri? Sì, credo di sì. Dobbiamo migliorare perché abbiamo il terzo gol che prendiamo su calcio piazzato, è una squadra che vuole diventare grande, non può regalare questi gol alla squadra avversaria. Questo Inzaghi, però interessante anche Sarri. Ieri ho snocciolato il curriculum dell'allenatore dell'Empoli, non ricordo sinceramente nemmeno una delle squadre che ha allenato all'inizio della carriera, chiedo venia, però ieri sera ha parlato di righe sulle magliette. Che è successo con l'arbitro? Perché poi è arrivata l'espulsione lì? Si è detto qualcosa? L'espulsione perché gli ho detto queste cose, gli ho detto che quando vedono le maglie a righe hanno delle difficoltà a prendere delle decisioni. Vabbè, questo non si dice Maurizio, Ma infatti l'espulsione ci poteva anche stare, io mi aspettavo un minimo di comprensione per uno sfogo fatto da un allenatore un minuto dopo un episodio. Si è nascosto neanche Sarri. No, ma guarda, io l'ho seguito dall'intervista, fra l'altro era nel post partita di Premium Calcio, e devo dire che Sarri ha usato una formula molto efficace, secondo me, dal punto di vista mediatico, nel senso che quasi ha avuto diciamo solidarietà nei confronti degli arbitri. Cioè, dal suo punto di vista ha detto: io mi rendo conto che se c'è un torto arbitrale nei confronti dell'Empoli se ne parla per 30 secondi, se c'è nei confronti del Milan, della Juve, dell'Inter o di squadre molto importanti se ne parla per mesi. Questo è rido. Che è successo? Ricky su Twitter: parlo in studio, non è corretto, non c'è neanche una galleria, un cunicolo, il fascino della perdita del segnale. Se vuoi faccio un SMS, che si sente bene Pardo non mi prende la radio. No, SMS. Allora. No, sai, ti rivelo un retroscena. Abbiamo avuto lunghi contatti, lunghi inciuci oggi con l'ufficio stampa dell'Empoli. Sì, speriamo, signora Imovici. Speriamo fruttuosi. Ecco, sì, e sì. Allora, per prima cosa abbiamo chiesto Sarri, no? Certo. E la risposta è stata, me l'ha confessata Piantanida, no, il mister, guarda, non ci provo neanche perché mi risparmi un vaffanculo. Ah, beh, buono. No, speriamo di averne un altro. No, ma io dico questo, l'altro giorno invece ho avuto, salutiamo gli amici di Udine, no? Perché ero a Udine, ho parlato con Stramaccioni, dai, domani dopo la partita, domani sera vieni, ti colleghi 20 minuti, mezz'ora, ho parlato anche col presidente, era tutto d'accordo, non siamo riusciti a farlo, non si è capito bene quale fosse il problema, anche se Stramma teoricamente mi aveva detto di sì, e questo lo dico a tutti quelli che poi spesso giustamente si lamentano al fatto che le squadre medio piccole hanno poco spazio, poi quando c'è un'impresa da celebrare, volte, perché comunque è un'impresa l'Empoli che ha pareggiato col Milan, l'Udinese che ha battuto il Napoli, e poi non c'è voglia di parlare, perché, sai, poi spesso, poi spesso la gente chiede ma come mai non avete questo, quell'altro, quest'ospite, quell'altro, è molto più semplice convocare un ministro che non ma che scherzi, ma chiaramente questo in maniera incomprensibile, peraltro. Guarda, è un bel dibattito, non lo so, più da convegno, però, che da trasmissione televisiva o radiofonica, però, perché è un po' autoreferenziale, però in realtà veramente, insomma, se il mondo del calcio fosse un pochino più aperto, un po' più sereno, cioè non è che ci sono trappole ogni minuto, insomma. Io penso onestamente di non aver mai teso trappola a nessuno, ora che mi ricordi, quantomeno non in maniera voluta. Ecco, quando venne Nedved 2 anni fa, 11, un programma clandestino che andava in onda su Italia 2, disse, beh, chi non vorrebbe Ibrahimovic in squadra, è tutto sport. Il giorno dopo scrisse, tipo, Nedved, Ibra, Nedved ti vuole, ti chiama, cioè, e lì successe un po' per qualche giorno, ci furono le smentite, però insomma, voglio dire, sono discorsi proprio banali. Credo invece che gli approfondimenti televisivi, radiofonici, fatti bene col sorriso sulle labbra, siano un'occasione per raccontarsi e per non prendersi troppo sul serio, per cui la porta è sempre aperta, la luce è sempre accesa, il fuoco è sempre vivo, la mano è sempre tesa. Hai letto il messaggio di Antonio? No, aspetta, perché adesso mi metto questo. Allora, 349-238-6666 per la cronaca, Pierluigi Pardo qui con me oggi, a sorpresa, fino per un'oretta. Antonio che scrive: la puntata va ripetuta, perché se la voce di Pardo non sembra arrivare da una caverna, la puntata non può essere omologata. 800-24-0024, vi aspettiamo. Che voce, quale cellulare sta usando Pardo? Ecco, non quello, non il cellulare, quello lì bellissimo, stupendo, che però fa male le telefonate. 14:15, ecco. Lo so che ci tieni. Sì, sì, traffico, votate la vostra coda preferita. Vota. Sì, non nascondo che è vero, perché Ibra lo considero all'altezza di giocatori come Ronaldo e Messi, tra i primi tre del mondo, perché è uno che ti fa cambiare la squadra, che ti migliora la squadra, uno che riesce a giocare da solo avanti, perciò chi non vorrebbe Ibra, a me piacerebbe, quello sicuro. Tutti convocati. Scusa, perché guardi i programmi della televisione? No, stavo guardando Aldo Grasso, devo dire la verità. Ah, Pechino Express, lo show più divertente della TV. Pensavo che stessi guardando un programma di la serata prima di Stavo anche cercando di vedere quando va in onda Tiki Taka, tardissimo, stasera dopo le Iene, però resistete, eh? Mezzanotte e 40, vabbè, cosetta così. Però dopo le Iene, e andiamo in onda anche domani, 23:10 Italia 1, il giovedì, Che esagerato. Esagerato. Perché neanche Bruno Vespa, di un presenzialismo, neanche Bruno Vespa. Stimare, benvenuti, bentornati a Tiki Taka. Tiki Taka questa sera, ministro Boschi. Ovazione per lui, eccezionale anche stasera. La coda preferita, la mia, è sulla 7. Ricordiamo che la settimana prossima saremo, no? Saremo, lo possiamo dire? A Genova. Sì, a Genova, l'ho già detto ieri. A Genova per noi, Genova della campagna, venerdì prossimo, al Salone Nautico, dove ti verrà omaggiata una nave, una barca. Mi sembra, sapevi, no? Ah, mi sembra un gettone di presenza congruo. Dopo le cuffie d'oro ti regalano un vascello. Ma guarda, a me basta, senti, basta un gommoncino, Barberino Ronco Bilaccio, Barberino Calenzano. Io mi prendo Barberino Calenzano, un po' perché la coda è più corta e poi perché si va verso sud, verso Firenze, verso altre vie. Sì. Pardo fa paura quanto è grasso, ma non si può contenere con il cibo. Ecco, lampi di saggezza che arrivano dal web, non si firma il 348, eccetera. Eccetera. Bene, abbiamo le telefonate. Andrea, provincia di Livorno. Buongiorno. Voi. Allora, innanzitutto la Cisa batte tutti da sempre. Vabbè, la Cisa è molto bella. La Cisa è molto bella. A horse category, come che dicono, punto, il Tour de France. Che punto della Cisa? Cosa ti piace? Poco prima di Pontremoli. Venendo da Livorno, prima di Pontremoli. sì. È fantastico, non è perenne, non è male, non è male. Dovrà essere messa negli annali come quella perenne. Ma è anche la 7 però, la galleria quella di San Saturnino lì dalle parti. Io personalmente quando tocco la Liguria cerco sempre di evitarla a prescindere. Perché? Che succede? C'è Spinelli. C'è Spinelli. Caso mai che si incontra Spinelli, certo. Come noi livornesi entriamo in Liguria, Spinelli si chiedeva io. Il pedaggio. Te lo ricordo, fiorino. Allora, velocissimamente, ieri sera ho rinunciato a vedere il mio Livorno per andare a vedere quello che era il mio primo amore quando il Livorno, ai noi, navigava in zone del calcio che non gli erano. Cioè Lempoli. E sono andato a Empoli. Lempoli. Il Milan, l'amore era Lempoli, no? Come? L'amore cui fa riferimento era Lempoli, no? O il Milan? Diciamo l'altra squadra che ieri sera indossava in maniera, diciamo, inappropriata le maglie rossonere. E perché ho visto una difesa. Ma quindi scusami, il giorno di Milan Livorno, storico ritorno in Serie A del Livorno, sì. Le bandane anti Berlusconi. Che ti favi? Milan Livorno. Livorno. Avevi la bandana, sei stato allo stadio? Certo. Ma eri bandanato? Sì. Hai ribandanato. D'ordinanza. Bene, stasera ti facciamo chiamare dal signor Cruciani. La mamma, il Milan è l'amante. Ecco, vabbè. Quindi no, l'ho visto, la difesa è imbarazzante. Oltretutto, l'Empoli, vi garantisco che l'ho vista a Livorno da sempre. E, ahimè, spesso anche in Serie B. Lo schema che ha fatto in occasione del secondo gol, sono 4 anni che fa sempre il solito. Sono 4 anni che l'Empoli fa quello schema. Inzaghi dovrebbe fare le partite al Subbuteo. Subbuteo non è una cattiva idea, l'hanno usato in molti, anche un ex allenatore dell'Empoli, Somma, ti ricordi? Sì, usava Subbuteo. Sì. Non è una cattiva idea. L'Empoli, al di là del, insomma, io non credo che Inzaghi abbia trascurato dettagli di preparazione, però diamo merito all'Empoli che ha giocato un gran primo tempo. Sì, beh, no, l'Empoli poteva vincere la partita. L'episodio secondo me più pesante è il mancato secondo giallo a Muntari, che c'era, insomma, lo dico proprio senza mezzi termini, e quello avrebbe probabilmente cambiato la partita, perché l'Empoli era già avanti. È chiaro che quell'espulsione c'era e poteva completamente cambiare il corso degli eventi. Poi il Milan è stato bravo, e questo va riconosciuto, secondo me, nel secondo tempo, a rimettersi in piedi. La reazione c'è stata, ma insomma, ripeto, per me, io mi aspettavo di più dal Milan. Mi aspettavo vincesse ieri. Ma è chiaro. Pierluigi, però al primo tempo finisce sotto 2-0 a quel punto non so se puoi dire pessimo primo tempo, che è stato, oppure guardare gli episodi chiave sono stati due: il colpo di testa di Torres, certo, che ha cambiato la partita, e il mancato rosso a Muntari, che insomma avrebbe reso sicuramente più complicata la rincorsa. Tra l'altro Inzaghi ha parlato di questo, proprio di quanto dice il nostro ascoltatore: ma hai visto la partita? Conosci l'Empoli? Gli hai dato un'occhiata? Io ieri e oggi ho fatto il video dell'Empoli solo sulle palle inattive, perché sono bravissimi, perché sono 3 anni che giocano con questo allenatore, fanno sempre dei blocchi, avevo messo 2 uomini a zona per andare a cercare la palla se ci avessero fatto il blocco. Non funzionava il DVD. Non so che dirti, avrò sbagliato. No, funzionava, avrò sbagliato qualcosa io e cercherò, insomma, di migliorare, perché è un peccato. Ma la storia dei 33 schemi penso mi abbia fatto già male abbastanza nel corso degli anni, perché poi sono quelle storie che ti danno delle etichette che nel calcio a volte si pare. Allora Sarri è un bel personaggio. Sta facendo bene, l'Empoli ha giocato bene tutte e 4 le partite fino a questo momento, insomma. Anche con l'Udinese la prima giornata ha fatto delle cose interessanti. E insomma la sensazione è che, anche se i nomi sono sicuramente più da Serie B che da Serie A, lo diciamo, insomma, almeno perché non siamo abituati, però la qualità del gioco può tenere l'Empoli in vita, ad avere speranze e possibilità. Quindi insomma, sì, io credo che queste ultime due partite, la reazione di Cesena e quello che è successo ieri contro il Milan, dicono che l'Empoli è vivo e lotta insieme a noi. La classica squadra che nel campionato di Serie A da underdog prova a partire forte, stanno benissimo fisicamente. giustamente, e giustamente però vanno a mettere fiori in cascina. Ci dicono che i messaggi antistampa casualmente non li notate, a parte queste categorie antistampa, antistampa. Mica c'è la stampa. Se i giornalisti evitassero i tanti travisamenti fatti per urlare scoop, ci sarebbe più disponibilità, cioè? Ci scrive Fede da Alessandria. Che vuol dire? Ma non lo so, no, ma è vero. Allora, è vero che esiste sicuramente un giornalismo urlato fatto inevitabilmente sulla ricerca di notizie quotidiane, però non credo che adesso tutti i giornalisti facciano dei travisamenti per urlare scoop. Non lo so, insomma, e comunque sia, tante volte di cosa, se no, ma in generale sul discorso della difficoltà nell'avere ospiti rispetto ai talk show politici, no? Che sicuramente no, ma è reale. Cioè, sì, è reale, però dice dal suo punto di vista, giustamente Fede, che i giornalisti sportivi fanno tanti travisamenti per urlare scoop. Io invito, apro un concorso, ok? Porta aperta Radio 24. Ma certo, venite, anche provate, ma proprio apriamo le porte ai Tiki Taki di Radio 24, provate a venire e a lavorare con noi e a invitare giocatori, allenatori, eccetera. Provate e poi ci dite, poi scrivete, dite tutto quello che volete. Paolo Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo parlare io dalla squadra del condominio, come dice Moghini. Ha detto non abbiamo visto Milan-Juve, abbiamo visto la Juve giocare contro una squadra del condominio. Non ce l'ho con il Milan in generale, ce l'ho con l'atteggiamento del Milan dell'altro giorno. Questo ha detto, dalle parole di Berlusconi, il Milan doveva vincere lo scudetto dopo due partite, invece l'abbiamo vista a Empoli, l'abbiamo visto con la Juve. Ma il problema secondo me di fondo è Inzaghi. Io penso che Inzaghi faccia la fine di Stramaccioni, cioè partita la grande, mi ricordo vinse con la Juve, poi piano piano si spegne, piano piano, e fa la fine sicuramente di Stramaccioni. Un po' troppo velocemente per spegnersi piano piano quattro partite. Lo so, però non c'ha gioco la squadra. Non è vero, no, non sono d'accordo Paolo, non è vero che non ha gioco la squadra, anzi abbiamo detto... Attenzione, abbiamo detto dopo le prime due partite, abbiamo una memoria cortissima, come è giusto che sia, però dopo le prime due partite ho sentito molti dire, beh finalmente Milan ha una faccia, magari non una faccia brillante, scintillante, charmant come quella che aveva prima, però ha un atteggiamento, ha una faccia, ha una fisionomia magari un po' più difensivista, magari un po' più attenta alla ripartenza, eccetera, eccetera, però il Milan ha un volto, questo l'abbiamo detto in molti. Contro la Juventus quel volto era annerito dalla paura, probabilmente, e ieri sera, sinceramente, la partita è un po' più difficile, un po' più complicata da leggere. Quello che mi domando è se adesso Inzaghi, che chiaramente non l'ha presa bene ieri sera, insomma, si trova di fronte a una prima difficoltà, cioè quella di magari fare due orlacci negli spogliatoi, perché fino adesso è stato il fratello, no? È stato il condottiero, sono uno di voi, entro in campo a esultare. Sarà un primo passo verso la via del diventare allenatore tout court, quello di magari confrontarsi con il giocatore. Io ti dico, secondo me Inzaghi fin qui ha fatto bene, ha portato entusiasmo, e non sono d'accordo sul fatto che non abbia un'idea di gioco. C'è l'idea di gioco, si è vista il primo tempo a Parma, è stata una delle cose più belle degli ultimi anni del Milan, secondo me. Però ci sono problemi difensivi assortiti e non risolti, e difficoltà dal punto di vista degli uomini, e poi si è visto alla prima vera grande partita contro la Juve che c'è una differenza. E il Milan ha finito l'altro giorno, sabato, per snaturarsi, per giocare una partita timida, per giocare una partita piena di complessi e piena di paure, direbbe Verdone. E però, insomma, secondo me bisogna sempre ricordarsi dove era il Milan qualche mese fa. Insomma, mi sembra l'inizio di un percorso. Poi ieri mi aspettavo sicuramente di più dal punto di vista dell'approccio, e ripeto, dal punto di vista difensivo, l'ho detto prima, 8 gol subiti in 4 partite sono troppi. Borsa, poi torniamo. 800 24 00 24, numero verde. Torres, rete, El Niño, 3 gol di Torres, 43esimo, il Milan torna in partita. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Convocati. Because Ofi is not Real Madrid, is not Barcelona, is Ofi small team, have many problems. I want my players play with balls and with hearts. This I speak with my players. Thank you. Searching for the thrill of it. All along we are. sarebbe insomma un sogno fare il primo gol in Serie A al Milan, insomma credo sia un po' il desiderio di ogni bambino che inizia a giocare a calcio, quindi insomma cercherò di fare del mio meglio per appunto segnare al Milan. Lo schema invece, il pallone basso, fatto filtrare, c'è il raddoppio dell'Empoli, Pucciarelli. Pardon, ma la vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio? Si faccia una domanda e si dia una risposta. Manuel Pucciarelli, quando un giorno ah, Pucciarellone, quando un giorno è già finito e un altro giorno è appena cominciato, come va? Salve, buonasera a tutti, va benissimo. Tutto bene, com'è il giorno dopo? Com'è bello, festeggiato? Bello, come la sera prima. Immagino. Ma tu avevi motivazioni particolari contro il Milan o sbaglio? Beh, milanista. Punto. Sì, sono milanista, sì. Quindi è una cosa in più, dai, per aver fatto con la propria squadra è comunque una bella cosa, perché quando siamo in campo non pensiamo alla propria fede, quindi... Classe 91, sei di Prato? Parlaci di te, raccontaci la tua infanzia, l'adolescenza, un po' di cose. Ma niente, ho iniziato a giocare nel Jolly e a 10 anni sono venuto qui a Empoli, quindi sono un empolese d'adozione. Il Jolly Montemurlo, vero? Il Jolly Montemurlo, sì. Chi non conosce il Jolly Montemurlo? È famosissima. Io ho aperto Wikipedia davanti, devo confessarti questa cosa, però. Dov'è Montemurlo? Vicino Prato. Vicino Prato, ecco. Sì. Senti, il segreto qual è? Ieri, adesso al di là di tutto, insomma, al di là degli errori difensivi del Milan che ci sono stati, però insomma, per 60 minuti avete fatto la partita, avete continuato anche quando eravate avanti ad avere occasioni per chiuderla, anche Tavano nel secondo tempo. Sì. Giocate proprio bene. No, ma che poi tutti dicono, io voglio aggiungere, non dà un po' fastidio il giorno dopo sentire, ah, ma il Milan deludente, eccetera. Secondo me avete fatto una grande partita voi. Sì, assolutamente, abbiamo fatto secondo me un grandissimo primo tempo, abbiamo messo sotto il Milan, quindi questo ci fa onore. Poi è chiaro che insomma non è facile contro questi campioni che ti possono risolvere la partita in ogni momento, quindi insomma siamo stati non bravissimi a tenere il risultato e insomma bravi anche loro a rimontare. Ma è vero che insomma 11 titolari dell'Empoli guadagnano 2.200.000 euro, lo sai, Pierre? Sì. Cioè Torres ne prende 4, Mexes 4.5, e pare che Manuel Pucciarelli abbia detto: valgo come una scarpa di uno qualsiasi del Milan. Sì. Beh, confermi, è la verità. Sì, confermo, credo sia proprio così. Però, insomma, però non pensiamo certo a quello quando andiamo in campo, anzi sappiamo di giocare contro questi campioni e quindi diamo ancora di più. Credo che sia questo il nostro. E se poi gliela sbatti dentro, vale ancora di più, è ancora più libidinoso. Senti, Torres, come l'hai visto? L'ho visto bene, forma, e mi ha fatto una buona impressione. Ma fa effetto visto da vicino, cioè ancora. Sì, e per me è sempre stato il mio idolo, l'ho sempre seguito con ammirazione, quindi insomma ha fatto una bellissima impressione. Senti, invece Bonera è stato il tuo, cioè la difesa del Milan come l'hai vista adesso, senza personalizzare su Bonera? No, hanno fatto bene, non benissimo, ma un po' tutta la squadra, quindi non si può dare la colpa a nessuno, secondo me, alla difesa in particolare, perché comunque tutta la squadra non ha girato bene, poi al secondo tempo hanno messo un po' le cose a posto, quindi... Tu ce l'hai un numero di gol nella testa? Come obiettivo dell'anno? Cerco di farne più possibile, poi è chiaro dipende anche insomma da quanto giocherò, e quindi penso solo a fare bene partita dopo partita, non mi sono prefissato, insomma niente. Però la pagella della Gazza di oggi te la porti a casa, pagina 5, il migliore dell'Empoli Pucciarelli, voto 7, il più continuo e il più pungente, costringe Abbiati a una grande parata, segna il raddoppio. Va vicino al terzo gol, non ha paura di provare l'azione personale, voto 7. Al prossimo gol chi vai ad abbracciare in tribuna? La nonna di Florenzi. Vediamo se mi viene a vedere, dai. Chi andresti ad abbracciare in tribuna? La mia ragazza, sicuramente, che è sempre lì presente quando gioca in casa, quindi... Quindi come Pat Cash a Wimbledon. Come Pat Cash, come Simplicio in Roma Napoli. Grande Pucciarellone. Senti, ma volevo sapere ancora una cosa. Quando viene a Tiki Taka? Quando viene a Tiki Taka? quando volete voi. Attira, adesso parlo con i movi cici e organizziamo. Ma tu conosci a tutti voi. E 33 gli schemi offensivi di Sarri? Uno sì, per uno? Sei sicuro? Uno per uno, perché è 3 anni che facciamo quelli, e quindi ormai li sappiamo a memoria, anche quando si va a letto li sogniamo, quindi... sappiamo, sì. Vedi che i sogni aiutano a vivere meglio. Dammi un indizio, il 26 non lo spiegare, sennò poi è spionaggio industriale. Il 26 dimmi solo che devi fare tu nel 26. Nel 26 devo andare quello che ho fatto ieri. Ah, ok, beh, non mi serve. Segnare al Milan. Quello di ieri, che cos'era? Quello lì, del gol. Lo scala di ieri. Era un braccio, punizione. Un braccio. Si chiama un braccio. Sì. Un braccio. Ma c'ha un numero? No, alza la mano, chi batte. Ah, allora, basta dare indizi ai prossimi avversari. Tanto si può sempre cambiare, se vediamo che se ne accorgono si cambia. Si cambia, ma comunque sì. Quando vai a Tiki-Taka da Pardo, ti do questa dritta, fai, metti una bella lavagna e vediamo se davvero Pucciarelli sa tutti gli schemi, 33, tutti e 33, disegnare tutti e 33. Magari 2 o 3 per volta, tutti e 33 insieme, ma... Non so, eventualmente Assatto, Mughino, chi vuoi tu, no? Sì. Metti lì. Grazie a Arcese. Schema numero 33. Ciao Manuel, grande, ciao. Non molliamo, andiamo a vincere, grandissimo. Grande Pucciarellone, salutiamo. Con chi avete parlato? Con Aimovici? Grande Aimovici, salutiamo anche lui. L'unico uomo con l'H davanti di tutta ma sì, detto stampa dell'Empoli, collega simpatico, bravissimo. Hubner non c'è più, l'unico uomo italiano del calcio italiano. Ma c'è Hubner, sì, Hubner. Grazie Manuel. Poi c'è Ribal, ciao. Signorina Ribal, ciao. Ascoltatori? Certo, vai. 800240024 Fabio, provincia di Brescia? Sì, sì. Ciao Carlo, ciao Pierluigi. Sì. Due cose. Ciao. Sul Milan. Sì. Complimenti per la trasmissione, ma penso che non c'è bisogno di dirlo. Ascolta, allora devi sputtanarmi tutto quello che sai sul Milan, sulla società. Devi dirmi che intenzioni ha la società, perché così, cioè, tornato campionato uguale a quello dello scorso anno e degli anni precedenti. La seconda cosa, ma io dico, ma Bonera, la terza categoria. Ma povero Bonera. No. È un incapace. È un incapace. Certamente non è Beckenbauer. Ci sono nelle categorie dilettanti che giocano molto meglio di Bonera. Grazie di tutto. Ma guarda, io ti dico una cosa su Bonera, è che il problema è strutturale, nel senso, per esempio Bonera non è l'uomo nero, anche se ieri si era fatto male, ci mancherebbe altro. Non è l'uomo nero, cioè non è il colpevole della difesa. Tra l'altro la telefonata era dalla provincia di Brescia, no? Brescia, quindi sì. Non c'è neanche solidarietà cittadina, visto che Bonera è bresciano. No, a parte le battute, però mancava Alex. Bonera, guarda che nelle prime due giornate aveva giocato titolare, sembrava insomma di tutti i vari Rami, Zapata, quello un metro avanti, no? come secondo centrale di difesa, addirittura aveva giocato a sinistra contro la Lazio della prima giornata, quindi insomma il problema è strutturale, ecco, e qui torniamo alla prima domanda, al primo aspetto, insomma, poi che ieri Bonera abbia giocato male non ci sono dubbi, ma insomma non è questo il punto, è che dal punto di vista, scusate il gioco di parole, dal punto di vista difensivo il Milan non è cresciuto, o perlomeno senza Alex, perché poi c'è anche questo Alex elemento, fatica, oddio, Alex c'era pure contro il Parma, però insomma se poi alla fine vinci la partita 5-4 ma la controlli quasi sempre come è successo contro il Parma, puoi anche pensare che gli errori difensivi siano stati dei rischi calcolati in qualche modo, lì deve migliorare. Però può avere qualche altra soluzione difensiva Inzaghi secondo te, oppure questi sono Alex deve recuperare ed è sicuramente quello più avanti di tutti, c'è Rami che è una soluzione potenzialmente fisicamente interessante, però poi io non penso che sia masochista. Alex Rami come coppia difensiva non li vedo benissimo, perché hanno strutturalmente sono più o meno simili, hanno problemi di rapidità, velocità, recupero, poi non mi sembra particolarmente bene negli ultimi minuti contro la Lazio la cosa è passata un po' sotto silenzio. La prima giornata c'è stata anche la difesa a 3 con l'ingresso in campo di Armero per proteggere il risultato, insomma bisognerebbe trovare delle soluzioni alternative, ma insomma, io penso adesso che non non sia così come il Milan forse non si doveva gasare dopo le prime due vittorie. Adesso c'è una strada ancora possibile davanti, l'obiettivo non può essere lo scudetto, ma è quello di ricominciare a costruire qualcosa. E da questo punto di vista io non mi sento di dire che è tutto sbagliato, che è tutto da rifare. No, io neanche, è un work in progress. Come è un work in progress l'Inter, che pure secondo me è un po' più quadrata, è un po' più concettualmente solida rispetto al Milan. Allora, io prima del traffico saluto il signor 58611, che è uno dei nostri più fedeli ascoltatori, scrive un sacco di messaggi. Sì. Purtroppo non riusciamo mai a convocarlo, ma lo aspettiamo a braccia aperte. Ma ogni 3-4 minuti abbiamo trasformato un programma serie di calcio in una pagliacciata di programma. No, sarebbe interessante avere una. Poi un abbiamo, si vede, Bardo non capisce una serie di calcio. Aspetta, questo qui è 14:29. Poi c'era, aspetta. Ah, super cazzo, no? 14:27, siete penosi. Poi aspetta, perché c'era alle 14. No, ma solo 13. Più che altro sarebbe interessante avere. Averlo come ospite, lo ma soprattutto se siamo penosi, ma perché ci ascolta? Cioè, adesso lo dico con grandissimo rispetto, cioè, ma veramente la domanda è. Poi io sono felicissimo che ci ascolti, ci mancherebbe altro, e anche che dici quello che pensi, perché nessuno vuole censurare nessuno. Anzi, ci divertiamo un mondo. Ma qui invece voi comunisti dovreste vergognarvi di essere nati, fare scrivere i tedeschi sono soliti della storia, non giocano contro di noi, li bastoniamo, sono bravi se giocano contro il Portogallo, bella forza Müller, Allegri fino ad ora non ha fatto niente per la Juve, sta giocando nel modulo di Conte, ma non c'era proprio il No, lascia perdere il traffico, va. Ma poi no, io lo so che adesso tu per 30 secondi mi dici il traffico e mi blocchi e queste cose io non le capisco, perché tu fai delle trasmissioni che sono dei cult e poi vengono sospese per dire ha forato un camion sulla Torino Val di Susa. Tutti convocati. Ma poi sei riuscito, Pardo, a prendere Bernardeschi al Fantacalcio? E ho fatto non dirlo, che non ho scoperto, scusa, hai ragione. Ed è tutto. No, è che noi abbiamo un metodo per cui dobbiamo il martedì facciamo una cosa complicatissima. La Lega presieduta dal signor Riccardo Faggi, dal 1992 facciamo Fantacalcio in 12, quindi è una roba complicatissima. Ci portiamo i giocatori, abbiamo fatto i meccanismi, il draft tipo NBA, poi ci sono i modificatori, facciamo gli ingaggi. Cose illegali. Io non capisco nulla ho scoperto ieri che il martedì io devo mandare, dico, voglio fare un taglio nel ruolo in cui lo voglio fare. Il giovedì devo formulare la proposta, per cui smentisco completamente che mi interessi Bernardeschi, assolutamente lo smentisco proprio. Proprio non mi, no, è un altro, il nome è un altro. Questo lo dite voi giornalisti, non abbiamo mai fatto questo nome. Getta, non farlo spiritoso. C'è chi ha le altre società ci ascoltano, la Nacional Ferragi, la Fiorentina, la Dinamo Fiuggi. C'è chi ha Pucciarelli al Fantacalcio ed è molto contento, cintura nera di plusvalenza. Marco signor Pucciarelli. Marco, provincia di Pistoia, buongiorno. Dica. Buongiorno, mi sentite? Sì. Sì. Ah, ciao, senti, volevo dire una cosa su Sarri, perché praticamente premetto che non ho visto la partita. Sì. E quindi praticamente ora ho ricercato gol dal tablet, ho visto un po' la sintesi perché mi è vato incuriosito un po' parlando degli schemi. Il famoso soprannome 33 schemi di Sarri, però bisogna dire che ovviamente pensano che sia una cosa abbastanza attuale. Invece già quando allenava la Santovino ormai 12 anni fa praticamente questo nome era già abbastanza conosciuto dagli addetti ai lavori. Praticamente io sono un tifoso di una squadra qui dilettantistica della provincia di Pistoia, e uno schema abbastanza anche un po' fesso lo fece. Una volta perdemmo 2-1 la partita, vincevamo 1-0, 1-1, poi a 5 minuti dalla fine, insomma, fece uno schema su un calcio d'angolo da sinistra e questo giocatore venne da dietro, noi non sapeva nemmeno come era stato, da dove era arrivato. Arrivò da dietro e pam! Che partita era? Era Sansovino l'Arcianese, 2-1. Sì, mi ricordo, sì. Che andò in vantaggio l'Arcianese, no? Sì, grandissima squadra del calcio toscano, assolutamente. Sì. Mi ricordo Sansovino dall'eccellenza alla C2 in 3 anni, quindi Sarri maestro di schemi e di vita. Quindi, sì, ma no, in questo caso. Adesso a parte le battute, è proprio uno di quegli esempi di grande gavetta fatta molto bene. Sì, ma tu ci credi in tutta questa plusvalenza degli schemi, questo plus valore degli schemi? Sì, era il 25 novembre del 2002, vero? Andalo via? Continua il mal di testa della Larcianese che a distanza di due settimane dopo la battuta d'arresto subita sul terreno di gioco della Rondinella esce sconfitta anche dal campo della Sansovino che grazie ai tre punti conquistati si colloca sorprendentemente al terzo posto. Larcianese autrice di una partita double fast, primo tempo interessante col vantaggio di Leotta, me lo ricordo, al sesto minuto. Uh-huh. E poi invece la Sansovino, vabbè, cosa è il colpo? Hai fatto la telecronaca? No, lo sono andato a vedere per piacere perché proprio sì. Volevo. Comunque, veramente l'ho trovato adesso su internet. E dovrebbe essere questa, dai. Senti, Sansovino, Larcianese 2-1 ci sono stati. Facciamo così: Bad Corner, GR, torniamo. Ti va? Ok. Alternative? Cacio e pepe? No, cacio e pepe. Bad Corner. Bad Corner. Quote e pronostici. Prosegue anche nella quarta giornata di Serie A la sfida a distanza tra Juve e Roma, tutte in campo in contemporanea alle 20.45 le sfide di questa sera, e sono queste le quote SNAI per le partite odierne. La Juventus è in campo contro il Cesena di Bisoli, bianconeri nettamente favoriti per la vittoria di questa partita. L'uno infatti è quotato 1.12, l'X è a 8.50, il 2 invece con la vittoria del Cesena è quotato addirittura 20. Roma invece impegnata sul difficile campo di Parma dell'ex Cassano, l'1 la vittoria dei gialloblu che hanno vinto nell'ultima giornata di campionato è quotato a 3.70, l'X è a 3.40, il 2 invece con la vittoria dei giallorossi è quotato 2. In campo anche l'Inter in casa contro la bestia nera dei nerazzurri degli ultimi due anni, ovvero l'Atalanta di Colantuono. L'1 la vittoria dell'Inter è quotata a 1.45, l'X è a 4.25, il 2 invece con la vittoria dei bergamaschi è quotato 7. Il Napoli cerca il riscatto invece contro il Palermo, l'1 la vittoria degli azzurri è quotata a 1.40, l'X è a 4.50, il 2 invece è quotato 8. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi, noi ci risentiamo domani. Convocati. Because I work 12 hours a day. Malacchia. Fantastico Gennaro. Potrebbe prestare tre schemi a Benitez. Gli rimangono 30, sono tanti. Dice. Riferito a Sarri. Ne ha 33 al Gennaro. Un Gennaro polemico con il signor Benitez. Pardo, il signor a Benitez. Calcio si gioca dall'1 al. all'11. Giuseppe De Benitez. Certo. Rivista 11. Come va? Tutto bene, buongiorno a voi. Ciao. Che cosa devi fare domani sera? Pronto? Che fai domani sera? Domani sera vengo a Tiki Taka. Bravo, ok, no, giusto per vedere la squadra, approfitto. hai fatto l'esame? No, è bene, qua bisogna sono preparato. Adesso posso mettere la X, perché poi mi chiedono, ma De Belli se hai sentito tu, se ho sentito io tutto a posto. Ci penso io. Tutto a posto. Senti, direttore di 11, vice direttore del giornale Copertina per... Copertina per Alessandro Del Piero. Ah, Del Piero l'indiano? Del Piero l'italiano indiano. L'italiano indiano che tanta polemica ha suscitato. Pretestuosa. Sì, per me. Ma, allora, no. Lui la giudica così. Gli abbiamo io anche chiesto anche. Se ci è rimasto male e ha detto in maniera molto chiara no. Non la, diciamo che la polemica l'ha lasciato un po' interdetto, ma non l'ha toccato più di tanto. Mi sembra che nelle immagini che abbiamo visto in queste ultime ore di lui a Delhi che si allena, dicono che sta abbastanza bene. Secondo me pretestuosa rimane, sì, la polemica, pretestuosa perché... rimane ovviamente il caso politico, diplomatico, ovviamente la solidarietà, insomma. No, poi perché poi Del Piero, perché tutti se la sono presa con Del Piero, ci sono i Della Valle che hanno un club là, c'è adesso... Colomba, e non è che adesso se... Cioè, non è che dobbiamo andare... dichiariamo guerra lì, cioè esatto. è una questione... Molte aziende italiane giuridica, giudiziaria, ovviamente con delle implicazioni anche profondamente... pesanti dal punto di vista delle diplomazie, sulla quale deve lavorare il governo, non è che sì, non ci deve lavorare Del Piero, cioè, voglio dire di no, insomma. Che altro c'è, Giuseppe, su 11? Su 11 ci sono tante cose, ovviamente faccio uno spot perché questo è il mio compito. Certo, devi. Vai. C'è un bellissimo viaggio in due posti, uno famosissimo perché Londra è ancora più famosa della squadra che raccontiamo, che è l'Arsenal, ma lo facciamo con un taglio particolare perché facciamo un viaggio nell'anima dell'Arsenal, casa di Pardo, una cosa un po', è sempre una cosa un po' alta, ma in realtà poi è anche molto pop perché l'Arsenal è una squadra che ha dei tifosi eccezionali e li abbiamo anche fotografati molti con questa bellissima cosa che non conoscevamo, abbiamo visto lì a Londra, della di indossare delle maglie, tutte ovviamente ufficiali dell'Arsenal, ma non con nome e numero del giocatore, ma con un messaggio, un messaggio Arsenal fino alla morte. Till I die, insomma, till I die, your name mate, esatto. Till I die, Arsenal till I die, I'm a Gooner, Gooner. Sappiamo che il tuo idolo assoluto è una bandiera dell'Arsenal. Tony Adams. Tony Adams. Tony Adams, sì, è il mio eroe. Sì. Sì, anche Springsteen, però Tony Adams di più. Sì, beh, insomma, forse Tony, insomma, se Springsteen a calcio e Tony Adams a suonare sarebbe, non andrebbe bene. No, Tony Adams contiene molte delle contraddizioni, degli irregolari della storia del calcio. Questo, questa situazione che poi abbiamo scoperto dopo in una bellissima autobiografia, Addicted, il problema dell'alcol, che però lui in campo aveva abbastanza nascosto. Cioè non, Adams mentre giocava non sembrava un irregolare, non sembrava George Best o Gascoigne o Balotelli o Cassano, no? Era un giocatore molto regolare come tipo di rendimento, che nascondeva però dentro di sé questa tragedia, questo problema. E mi ricordo molti anni fa che l'ho intervistato per la Sciacquata Egidio, lui allenava, non mi ricordo bene quale club delle home counties, a 100 km da Londra, e a un certo punto c'era questa cosa dello Sciacquata Egidio che doveva leggere un pezzettino del libro, sì. E io avevo scelto un pezzo chiaramente abbastanza empatico, commovente, sul problema dell'alcol, e lui non riuscì, nonostante il fatto che fosse tecnicamente fuori dall'alcolismo, e mi contropropose dicendo: guarda, l'unica cosa che posso leggere è l'ultima pagina, che è una specie di manifesto nella quale lui diceva che ogni giorno lui doveva lottare contro questo demone perché non era mai superato. Insomma, una cosa che mi ha fatto abbastanza impressione, sì. Perché evidentemente aveva ancora dei demoni dentro di sé. Un giocatore fantastico per me, con pregi e difetti. Stopper. Poi io, insomma, non essendo esattamente uno magrolino dotato tecnicamente, ma uno grosso un po', no. Ti riconoscevo, non so come insultarmi, mi riconoscevo, esatto. Altri spunti De Bellis? Poi la storia, diciamo, che si specchia con quella dell'Arsenal, invece è quella dell'Eibar, che è questa squadra che per la prima volta è arrivata nella Liga. L'abbiamo raccontata anche questa molto da vicino, andando a fotografare l'esatto opposto, perché il campo dell'Eibar, per chi l'ha visto in queste settimane, è qualcosa di surreale. Cioè, sembra un campo della nostra Serie C, però le persone che tifano Eibar sono eccezionali, e quindi abbiamo raccontato. E poi c'è un'intervista imperdibile al presidente della Sampdoria, Ferrero, che addirittura c'è sempre. Beh, domenica c'è il derby, e quindi abbiamo un articolo sul Genoa, un articolo sulla Samp, e quello sulla Samp è un'intervista davvero memorabile. Che vi ha detto? Dammi un estratto, dammi una frase, una suggestione, una cosa. La cosa più carina è che quando è stato presentato in Lega, ci ha raccontato che Lotito l'ha introdotto e ha detto: adesso sono cazzi vostri. Questo è stato il suo esordio. Sempre, diciamo così, sfumato, minimal, timido, sempre così. Però, insomma, vabbè, è andato rifatto, personaggio straordinario, insomma, dal punto di vista mediatico. Ma chi lo vince il derby? Non lo so, io lo commento e sono felice, perché il derby di Genova è una di quelle cose. Il derby di Genova veramente da rivista 11, penso, no? Nel senso che proprio è una di quelle partite in una città che è grande, ma non è così metropolitana, non è così enorme. Avere due squadre è già abbastanza raro, e avere due squadre con due tifoserie così è veramente pazzesco. Per cui poi lo stadio aiuta, lo stadio chiaramente non è il massimo, andrebbe rinnovato, ci sono un sacco di problemi, parcheggi, le fiere, Bogdanov, però dal punto di vista della partita lo stadio è clamoroso. Pensa se lo vince la Sampdoria. Giuseppe De Bellis, per chiudere, chi lo vince il derby di Genova? Ma io credo che lo vinca la Samp, quindi sì. per una settimana. Ovviamente adesso mi attirerò le ire di tutti i genovani. No, di tutti. Ti attirerò le ire, perché i genovani diranno che sei un doriano, e i doriani diranno che me ne sfida, che è gramo, che è rumenta, bene, capito? Quindi guardala in TV, guardala. Sei rovinato. Ciao Giuseppe, grazie. Ciao. Rivista 11 vi ha presentato... Ma pensa se lo vince la Sampdoria. Ciao Ilaria, un po' che la palla a Matano, se ne ho messa. Ho voluto unire due forze che sono simili: cinema, calcio, cultura. E questo è il sale della vita. Forza Sampdoria. Ne la faccio più. Io non te l'ho voluto dire prima, per non rovinarti la sorpresa, però ce l'abbiamo anche noi. Adesso? Sì. Attenzione. Presidente Ferrero, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Chi è lei? Pardo Genta. Bravo, bravo. Io saluto il direttore generale. Chi è? De che? Saluto il vostro presidente. Sì. Chi è? E andiamo, che radio è? Radio 24, radio 24. Confindustria. Radio bravi. Sassuolo. Bravi, Sassuolo Samp 0-0. Com'è andata Sassuolo Samp, presidente? Forza Samp, oltre alla Sampdoria c'è star vuoto. No, no, ma però vabbè, c'è il derby domenica, lo sappiamo, è una partita delicata. Però intanto stasera c'è Sampdoria Chievo. A me per Chievo non me ne frega niente, non me ne frega. Ma come me ne frega? Sono sempre tre punti, eh? Sempre tre punti. Vabbè. Beh, ma ci dedico un minuto per parlare anche di sì, non c'è problema. Non me ne frega niente, ma va bene. Me ne frega niente, va bene. Bene. Ma sarà già proiettato al derby di domenica. Chi è lei, scusi? Sempre Carlo Genta, qui con me per Luigi Pardo. Bravo. Beh, bisogna dire una cosa. Lo stadio fa schifo. Se prendono le infezioni. Io invece ci voglio fare la pista ciclabile, la sala cinematografica, perché faccio cinema da 40 anni, ho fatto 100 film, premio Oscar. Sì, ma tanto sì, sì. A voi non ve ne frega niente. No, non è vero, presidente. Non è siamo vero, molto attenti. La conosciamo e sappiamo che calcio, cultura, come diceva prima nella clip, calcio, cultura, cinema, divertimento, entertainment. Due cose, sì. Sai che è tempo dei fioretti, no? Totti che non mangia il gelato che vince lo scudetto, sì. Però poi lo rimangia se vince la Champions League. Lei, presidente, se faccio un fioretto per il derby, per vincere il primo derby della sua presidenza. No, guardi, a me del fioretto me ne frega. Non me ne frega niente. Strano. Ma proprio niente. Ma scusi, ma è un gioco. Perché giornale scrive lei? Siamo in radio. Siamo in radio. Bravi. Siamo in radio, presidente. Ah, bene. Ma che fioretto farebbe? Ne faccia uno. Allora, se la Samp vince il derby, io aspico una cosa bella. Che fa? Io aspico una cosa bella. Quale? Bacio sulla bocca, Mialovic. Mialovic. Mialovic, io che ho detto. Beh, al momento sarebbe un bel messaggio anche io, anti-omofobia. Io e Mialovic ci diciamo un sacco di cose belle. Bravo. Grazie, presidente. Grazie. Ci sentiamo. Sì, non me ne frega niente. Sì, questa è la un saluto al direttore generale. Ma che radio è? Boh. 24. Non mi può dare un suo telefonino? Ma telefonino non abbiamo, abbiamo solo quelli privati. Io posso dare? Voi ci avete chiamato un telefonino però. Eh beh, perché noi abbiamo questi qua come numeri, mi perdoni. Comunque glielo do, non è un problema, eh? Dica. 335. Se non vuole me. Ma presidente, ma tra me e lei. Dica. 335 8 4 1 8 4 1 7 7 7 inizi 7 7 7 inizi. Scusi, 8 4 1 allora, 7 7 allora 335 8 4 sì. 4 7 7 sì. Inizi 2 sì. Allora, sai che c'è una canzone del mitico Joe Strummer, certo, con il mescalero, intitolata Tony Adams Captain. Lost in a war beyond lost season. No, non conoscevo. Sto guardando su internet. Got a Tony Bennett, a track in the old PT, the moon turned and shot someone. Anyway, only that man stomped the broke pedals. Sto leggendo, non è. Sì, sì, non sì, sono sì, impazzito. Sì, vabbè. Marco Pisa, buongiorno. Buongiorno. Chi lo vince il derby di Genova? Genoa. Okay. Senza la V. Dica. Ma meglio Amalfi, voi che siete di Pisa, meglio Amalfi, Venezia o Genova fra le altre repubbliche marinare? Come sono le simpatie, le antipatie? Non sono, io sono della Fiorentina, però so che i pisani non se la vedono con la Sampdoria, non si amano per niente. No. Ah, ecco, okay. Però ecco, il tempo è buono perché non so, perché Il Pisa, se non sbaglio, vinse la quarta giornata con la Samp nell'anno del ritorno in Serie A della Samp di Mantovani. Era credo l'82-83, l'anno poi dello scudetto della Roma. E la Samp vinse le prime tre partite battendo la Juve alla prima giornata e la Roma alla terza. E alla quarta giornata perse, secondo me, Pisa-Sampdoria 3-2. Vado a cercare perché mi piace essere preciso. C'è stato anche un anno in cui il Pisa fece un grandissimo filotto all'inizio della stagione. Credo fosse l'epoca di Berggren. Può essere, poi non finì benissimo il campionato. Pisa, Sampdoria, sembrava 82, la squadra rivelazione 83. Del campionato. Luca, provincia di Torino, buongiorno. Purtroppo da Pisa sentiva male. Dica. Ciao, buongiorno. Dica. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo dire la mia opinione sul Milan, sulla difesa del Milan. Dica. Ma secondo me alla fine negli ultimi anni il Milan ha sempre fatto giocare alla fine solo tre giocatori che difendono, perché anche Abate e De Sciglio sono troppo alti esterni, e anche le due mezzali, Poli e Montari, per esempio ieri, non hanno attitudini difensive. Sì, però Maicon e Lichtsteiner non sono due che non spingono, tanto per fare due esempi di due squadre che invece di gol prendono pochi. Secondo me il problema però non... giocano con la difesa 3, infatti la Juve gioca con 3 più Lichtsteiner e Asamoah sulla la Roma no, la Roma gioca a 4. Non lo so, non sono convinto che sia quello il problema. Poi sicuramente con una difesa piuttosto insicura è chiaro che anche gli esterni come adattamento possono decidere di salire un po' meno, però non mi sembra che il Milan abbia un centrocampo particolarmente offensivo come caratteristiche. Secondo me ha un centrocampo abbastanza scarso, quello sì, perché non sono manca Montolivo, onestamente a nomi ha un centrocampo diciamo poco qualitativo, ma non mi sembra un centrocampo particolarmente portato all'offesa. Se tu cominci a metterci Montari, De Jong, insomma questa gente sono tutto sommato interditori, sì. Diciamo che non hanno un centrocampo di alto livello. Io andrei sul 4-2-3-1 che ieri si è anche intravisto. 4-2-3-1 secondo me è il modulo giusto per il Milan, ma non ci capisco nulla. Volevo dirti che Pisa-Sampdoria è in effetti finita 3-2 3 ottobre dell'82, dopo le tre vittorie della Samp appena tornata in Serie A. La Samp nell'82 vinse contro Juve, Inter e Roma e poi perse a Pisa la quarta giornata. Gol di Todesco, Berggren, Scanziani, Berggren al 90° rigore di Mancini. Inutile però. Senti, ma Pazzini invece, tornando all'attualità? Pazzini ieri ha trovato qualche minuto. È destinato secondo te a trovare qualche minuto in questa squadra o è destinato a... Se continua così, secondo me a gennaio... El Shaarawy non era tornato El Faraon? No. El Shaarawy bisogna secondo me aspettare 2 mesi. Anche secondo me. Nel senso, dopo 2 mesi che gioca in maniera continua, a quel punto possiamo cominciare a sperare, sarebbe veramente un'ottima notizia non solo per il Milan ma per tutto il calcio italiano, che questo giocatore è uscito veramente dal tunnel. Perché si fa presto, no? Aveva giocato quella partita a Bergamo, ultima di campionato, penultima di campionato con Sedor, segnando, giocando molto bene, portiamola ai mondiali. Ha iniziato benino con le amichevoli prestagionali, che se un giocatore di grande qualità nessuno lo discute. Però adesso, ieri sera, Empoli panchina. Non so se sia turnover, ti ricordi ieri? 1, 2, 3, 4, 5, 6 turnover. Però assolutamente, ma assolutamente abbiamo bisogno di indizi certi, che al momento non ci sono. Gianfranco Treviso e poi salutiamo Pierluigi Pardo. Dica. Sì, io avevo chiamato perché avevo sentito il ragazzo di Brescia dicendo di Bonera. Sì. Gioca per me, milanista da 50 anni, gioca sempre con gli avversari. Secondo, Montari ha chi è sponsorizzato che deve giocare sempre? Chi è sponsorizzato? Montari, da chi è sponsorizzato perché deve giocare sempre? Io penso che sia un buon giocatore Montari. Allora, Montari l'anno scorso, adesso lo guardo un po' cosa ti dico. Fatto... Montari è un buon giocatore, è un interditore, non è un fine dicitore, sì, non è un palleggiatore. È un interditore che l'anno scorso ha fatto un certo numero di 8-9 gol in stagione. No, io sono d'accordo, cioè ieri l'ho detto e lo ribadisco, ha rischiato seriamente, e secondo me ci stava la seconda ammonizione, di farsi cacciare. È un giocatore che da sempre ha problemi nella gestione del nervosismo, dell'intensità fisica. Lavorava addirittura con un preparatore italiano anche quando era al Chelsea, con Tirelli, tanti anni fa, proprio per riuscire a correggere alcuni alti e bassi caratteriali. È un giocatore ovviamente non talentuosissimo. Detto questo, secondo me nel centrocampo del Milan ci può stare. Ma come no? no? Non riesco a vedere quanti gol ha fatto l'anno scorso, ma te lo dico subito, ne ha fatti esattamente 6. Beh, 6 in stagione, 5 in campionato, 1 in Champions League, non è che siano pochissimi, anche per un centrocampista di interdizione. Certamente, che poi ha dei difetti, che poi è molto irruento, che poi non è un fenomeno, ma credo anche sia un giocatore che ha una pessima fama non meritata. Montari, secondo me, è un... È un discreto giocatore. È un discreto giocatore. È chiaro che il Milan di oggi, e torniamo a quello che è stato un po' il filo conduttore, il leitmotiv. Ti piace il leitmotiv di questa puntata, motiv alla barese. Il Milan non è una squadra oggi pronta, corazzata, con fenomeni in tutti i reparti. Il Milan è un progetto che sta nascendo con dei giocatori spesso presi dal passato, che sono grandi scommesse. Torres è la prima di queste scommesse. Poi c'è un'altra Menez che è una delle note eccellenti di questa avvio di stagione. C'è un altro che sembra recuperato che si chiama Honda, che ha segnato anche ieri sera. Insomma, qualcosa si vede, non tantissimo ancora, ma qualcosa si vede. Sentiamo domani al telefono? Sì, ma magari torno. Vediamo. Domani è un casino di proporzioni, no, nel senso buono, cioè, no, che c'hai tiki taka di qua, tiki taka sì, di domani là. C'è anche la presentazione di un prodotto di entertainment. Di un videogioco che hai prestato la voce. Sì, ma non possiamo svelarlo per il momento, lo facciamo domani. Non tanto, non lo sa nessuno. Ciao, Piero. Ciao. Poi, per quel che riguarda il presidente, anche un'ora fa l'ho sentito, mi ha chiamato. So che è contento dello spirito, della voglia di questi ragazzi. È un po' pentito per quello che ha detto ieri, forse era più una battuta. Cioè, ti ha spiegato, ti ha voluto dire qualcosa o no? Deve andare più spesso a Milanello, non basta. Mamma mia. Sì, ma se poi vai. È dispiaciuto, presidente. Venga sempre a Milanello, noi aspettiamo più spesso, anche il giovedì. Basta. Sì, ma se poi non fanno quello che dico io. Presidente, si vuole in primavera. No, assolutamente, abbiamo parlato della partita di domani, ma ha fatto in bocca al lupo, sa anche lui che è una partita delicata per noi e niente, speriamo di regalargli un successo. Tutti convocati. Torniamo dunque 800 24 00 24. Se vi va facciamo anche la schedina per stasera, turno infrasettimanale, ore 20:45, Cagliari-Torino. Io mi gioco il 2. Fabrizio da Arezzo, buongiorno. Ciao. Ho chiamato perché con Pierluigi abbiamo lavorato a Wimbledon per stream, sono un collega, direttore di allenamento.net, quindi conosco Maurizio Sarri da 2002 e conosco un sacco di aneddoti che molti hanno scoperto in questi giorni. Per esempio, sì, sono stato io a dargli il nick Mister 33 e poi dopo è stato allungato a Mister 33 Schemi perché non si capiva bene che cosa significasse quel 33. Cosa significava? Una volta parlando così, siccome lui è sempre stato fissato fin da quando allenava in seconda categoria con gli schemi da palla inattiva, e ne aveva tantissimi, tanto che una volta diciamo quanti saranno, ma non so, una ventina, dicevo, mettiamo 33, che è un numero che ricorda il dottore che dica 33 piuttosto che 33 anni di Cristo. E questo Mister 33 poi dopo rimaneva, tanto che Massimo Caputi, con cui avevo lavorato a Tele Monte Carlo, lo invitò alla domenica sportiva e disse dicono che di lei che potrebbe emulare Cosmi e ha portato bene. Lui metteva ai calci d'angolo, appunto davano dei numeri che provavano chiaramente in settimana. Sì. Sulle punizioni, per esempio, c'erano dei nomi di battesimo, per cui Marco, Gianni. C'è anche un aneddoto, per esempio, in una partita che un giocatore chiamò lo schema Gianni e tutti gli avversari marcate Gianni, non c'era nessun Gianni in campo. E quindi nel tempo hanno avuto i pro e i contro, perché chiaramente se tu non hai un calciatore che è bravo a calciare la palla e metterla dove vuoi. No, ma poi ci vuole anche grande applicazione, perché voglio vedere mettere lì questi giocatori e fargli ripassare la lezione a memoria tutti i giorni. Probabilmente è qualcosa che funziona, anzi certamente funziona, al di là del fatto che l'Empoli in questo momento mi impressiona al di là degli schemi, mi impressiona, al di là di queste cose, perché è una squadra che gioca molto bene, è molto verticale, è molto, molto veloce, quindi gli schemi sono qualcosa di importante, ma non sono tutto, secondo me, non spiegano tutto. Poi, non lo so, vorrei vedere mettere lì gente magari con un contratto un po' più pesante o con delle ambizioni un po' più, un curriculum un po' diverso rispetto a quello dei giocatori dell'Empoli, tutti i giorni a lavorare sugli schemi. Certo, l'Empoli è un bel vedere, ricordo gli 11 titolari dell'Empoli guadagno 2.200.000 euro, Mexès 4.5, questo è un dato che mi impressiona. Luca Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo partecipare per dare il mio contributo sul Pisa. Sì, sul la stagione, Pisa. La stagione fantastica è quella del 91-92, del filotto iniziale. Mi ricordavo bene, no? Filotto iniziale con... No, aveva detto 82-83. Pardo aveva detto 82-83, era un'altra cosa, l'anno in cui il Pisa tornò in Serie A. Sì, però avevo capito che lei aveva detto, dicendo sì, forse anche la stagione del famoso filotto con Berggren. Invece la stagione 91-92 c'era un attacco stratosferico, perché c'era Piovanelli, Padovano, sì, e Simeone. Sì, sì. Simeone, sì, sì. Grande inizio, e poi purtroppo il 6-3 con l'Inter ha fatto cadere tutto. E finì male quella stagione, ricordo bene. Retrocessione. Piovanelli però convocato in nazionale per una partita delle qualificazioni. Quindi grande esaltazione, Larsen, se non mi ricordo, il giocatore del Pisa, poi campione del mondo con la Danimarca agli europei, 92, quindi un po' di cronostoria. Lei per caso è tifoso del Pisa, no? No, mi piaceva, simpatizzavo, perché mia mamma era di Pisa. Quindi... Ah, vabbè, ragioni familiari. per chi tifa invece? La Juve. Tra l'altro Piovanelli a quella fine di quell'anno andò alla Juve, con i trapattoni. Sì, ricordo. Senza grandissima fortuna, peraltro. Perché insomma non è che aveva davanti gente un pochino più forte, poi aveva un po' di problemi fisici. Fiorentina-Sassuolo come finisce? Fiorentina-Sassuolo, partita, Fiorentina però ha bisogno di risultati, quindi ci metterà l'anima per portare a casa i tre punti. Quindi uno. Inter-Atalanta... L'azzardo, perché Dennis non ha ancora segnato, mi sembra. Due. Lei non crede nell'Inter? No, non è che non ci credo. Come no? Inter-Atalanta 2? Vabbè, ma non ci credo in questa partita. Però non è che... È una bella squadra. Però sai, da Juventino di solito l'interista... Sono ragioni di partito. Mentre Piantarini mi fa... Ragioni di partito. Piantarini mi fa notare come l'Atalanta negli ultimi due anni ha vinto a San Siro. E non c'è due senza tre. Inter Cesena, dicevo, vince l'Inter. Però l'Atalanta è una bestia nera per l'Inter, quindi anche Dennis ha sempre segnato, mi sembra. Sì, e l'Atalanta ha vinto, mi diceva appunto Piantaneda, che ha vinto nelle ultime due stagioni, ha vinto a San Siro. Quindi se crediamo anche nei proverbi, non c'è due senza tre. Non le chiedo un pronostico, un segno in schedina per Juventus Cesena, perché lei mi dice una, quindi no, non mi diverto. Spero l'uno, ma visto è vero che era un amichevole, è vero tutto quanto, però il Cesena si chiude bene. L'X potrebbe anche scapparsi, non so, no, non vincerà, però provo a essere di non parte. Non ti viene benissimo, non ti viene benissimo. Questa volta direi una Ferrari con un motorino 125 che spera che ci sia un grande percorso tortuoso dove nelle curve noi riusciremo a essere più equilibrati di loro. E questo è l'unico vantaggio nostro, dove noi dovremo portare la partita in un percorso tortuoso con tante curve, con tanti capovolgimenti di careggiata, perché se la partita va via liscia è normale che non ci sia partita. Bisoli, allenatore del Cesena, che dice alla Juventus: vieni in montagna che ti faccio vedere il Beccaccino. Alberto, Genova, buongiorno. Ciao. Dunque, Sandoriano sostenitore di Ferrero assoluto. motivo che Genova è una città che i cambiamenti li vede veramente malvolentieri, poi in cui c'è questa nomenclatura insomma imprenditoriale di cui Garrone fa parte, ha la stessa passione di un derbino di casa. E invece quest'uomo ha portato un'esaltazione generale fantastica. E poi il capolavoro è, insomma, Sandorio non è il pizzeghettone, con tutto rispetto per il pizzeghettone, sì, ma portare gli tifosi allo stadio per Bergessio no, portarli all'aeroporto per Bergessio, sì, all'aeroporto, tutti all'aeroporto che arriva a Bergessio. Ma io me lo ricordo bene quel giorno, folla oceanica all'aeroporto di Genova per l'arrivo di Bergessio, buon giocatore eccetera, però Bergessio lì, capolavoro assoluto. Ferrero anche a me è molto simpatico, cioè lo prendiamo abbonariamente in giro, insomma è un personaggio, qualche volta è quasi impossibile da imitare, perché l'originale spesso supera la caricatura che ne viene fatta. Alberto, stai lì per favore un attimo che c'è il traffico, poi andiamo a parlare di quello che vuoi, ma a chiudere la schedina, perché siamo a Juventus Cesena. Del pronostico di prima non mi fido, abbiamo sentito Bisoli che vuole portare la Juventus tra le curve in montagna perché è un 125 contro una Ferrari, eccetera eccetera. Mi restano alcune partite: Napoli-Palermo, Parma-Roma, Sampdoria-Chievo appunto, e Verona-Genoa che si giocano stasera, e voglio sentire i vostri pronostici. 800240024 numero verde, traffico. Convocati. Dunque, stavo parlando con l'ascoltatore di Genova. C'è ancora? Sì, qua. Eccolo qua. Ecco. Cosa mi voleva dire al di là di questa dichiarazione di amore nei confronti di Ferrero? Che comunque la squadra è equilibrata, sta giocando bene, non ci si può lamentare. Obiettivamente poi i giovani stanno crescendo molto bene. Soriano secondo me diventerà veramente un giocatore importante per il nostro campionato se non ce lo portano via. Buona squadra, signore, ma nessuno lo discute, eh? No, per carità, però insomma comunque ha fatto un campione, cioè una campagna acquisti, ne avevamo paura che comprasse un giocatore da 15 milioni e poi sì, sparisse, è vero, invece sì, è stato equilibrato, pur avendo, come dire, fatto fuori Braida, però ha fatto direi una campagna acquisti sensata e senza fare follie, insomma, quindi... Il derby come va a finire? E non si dice. No, ovviamente non si dice, mentre Napoli-Palermo come va a finire? Questo si può dire? X. Viacchini il punto te lo porta via per sono forza, d'accordo con i denti. Sono d'accordo, anche perché il Palermo finirà per martellare sulla depressione napoletana. Sarà un ambiente molto difficile quello che il Napoli troverà stasera al San Paolo, una partita molto difficile per Benitez soprattutto. Staremo a vedere quali scelte innanzitutto Benitez produrrà all'inizio. Parma-Roma e poi la saluto. Parma-Roma secondo me anche in questo caso potrebbe essere un X, perché secondo me il Parma è una squadra e la Roma comunque sia sostanzialmente ogni tanto patisce con queste squadre di media classifica. Ormai raramente, ormai raramente. La ringrazio lei. Per non trovarci. Andrea Torino, buongiorno. Buongiorno, volevo parlare della difesa del Milan. Allora, mi sembra che Berlusconi, ho sentito in un'intervista, che è molto molto disperato a vedere tutti questi gol presi e stia pensando per la difesa a un fuoriclasse. Non so se l'avete sentito, ma sta pensando di mettere l'avvocato Coppi. L'avvocato Coppi? non costa pochissimo di cartellino. Non costa pochissimo di cartellino, quindi mi sentirei di escludere questa eventualità. Sampdoria-Chievo come va a finire? Sampdoria-Chievo mettiamo un 1 fisso, dai. E Verona-Genova? Verona-Genova, sorpresa. Come 2. Sorpresa? 2. Beh, potrebbe starci anche se, insomma, le squadre dell'Est sono state tra le grandi protagoniste di questo inizio di stagione, in maniera tutto sommato non così sorprendente. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per avermi convocato. Grazie a lei. Dica. Sono un tifoso juventino di Padova. Sì. Volevo segnalare cosa ne pensa della polemica. Marco, mi dica, cosa ne pensa della polemica, sì, secondo me piuttosto pretestuosa, ma anche un po' stiracchiata, se vogliamo dire la verità, tra il vostro ex allenatore, ora CT della Nazionale, Antonio Conte, e Allegri. Questa Juventus è più forte della mia, disse Conte, senza dimenticare, e l'ho sottolineato ieri, che questa Juventus è la sua, perché l'ha lasciata. Sta parlando ma forse si sta parando le spalle, perché quest'anno credo che la Juventus farà un bel campionato. La squadra è sempre forte, ha avuto qualche innesto, qualche giocatore antigiovane come Morata, che magari nel corso della stagione potrà la sua, però secondo me Allegri ha un atteggiamento meno di intensità e meno stressante sui giocatori, quindi forse li lascerà un po' più tranquilli durante l'arco della stagione, magari anche in Champions potrebbero fare qualche risultato migliore rispetto agli ultimi anni, che è stato abbastanza. Sì, io credo che comunque alla Juventus servisse un normalizzatore come Allegri dopo l'uragano Conte. Quindi ma anch'io la Juventus tutto sommato la vedo una squadra serena ed equilibrata, e la vedo ancora probabilmente superiore a tutte le altre. Generoso, Caserta, abbiamo ancora 3 minuti e mezzo. Ah, sarò velocissimo. Comunque complimenti a Radio 24 e a tutto quello che si gira intorno, perché io ascolto solo è fisso. Fantastico. Tutto quello che anche tutto quello che ci gira intorno. Ah, Barisoni mi piace. Mi piacete tutti, Giannino, mamma mia. Dopo arriva, tra un po' arriva anche Giannino. Dica. Senti un po', io è una cosa che non fino adesso se ne parla poco. Pepe, che fine fa? Io muoio dalla voglia di vedere di nuovo Pepe giocare. Pepe della Juve. Sembra tardi. Non si sa niente di lui. No, è un giocatore che ha avuto un sacco di problemi fisici. Tra l'altro ha un contratto ancora in essere attualmente, l'organico della Juventus, va in panchina, non gioca mai. Tra l'altro guadagna molti soldi pure Pepe. È uno di quei giocatori spariti per mille problemi uno dietro l'altro, e non sta più trovando spazio. È chiaro che, ripeto, essendo un giocatore con un contratto particolarmente pesante, non è nemmeno semplice trovare una collocazione di mercato. Non credo così a occhio e croce possa tornare utile ad Allegri, non credo possa rientrare nelle rotazioni di Allegri, ma qui vado a soltanto a intuizione e a sensazione mia. È assente da molto tempo, ricordiamo, un giocatore straordinario nella conquista del primo scudetto di Antonio Conte, anche a suon di gol. Mi ha raggiunto il nostro migliore, più grande appassionato della palla picchiata. Sei carico? Piantanida. Sei carico per i mondiali di volley femminile in Italia? Ma come no? Lo seguo ieri sera. È pazzesco quanto... pazzesco, in maniera meravigliosa, quanto entusiasmo ci sia intorno a queste ragazze. 9.000 ieri per il debutto con la Tunisia 3-0. Oggi? Oggi, stasera con la Croazia, stesso orario, impegno sicuramente diverso. Sì, sempre alle 20. Quindi hai anche i calciofili, ma io sono un calciofilo, possono fare così: prima delle partite si mettono lì, vedono come va, 2-3-7, un attimo l'andamento. 2-3-7, le partite iniziano 20:45. Vabbè, allora in 45 minuti stasera ci liberiamo della Croazia. No, partita difficile, a parte gli scherzi. Ieri sera con la Tunisia facile, la Tunisia non partecipava a un mondiale da 28 anni. Stasera con la Croazia test impegnativo, di un allenatore che conosciamo bene, il campionato italiano, tale il brasiliano Vercesi, è stato 4 anni da noi in Italia. Addirittura. Ma te ne so. Ma sto studiando il volley, Stai studiando il volley, comunque seconda giornata del torneo continentale, ma tanto poi lo vince Brasile, non abbiamo parlato anche ieri. Brasile favorito, Brasile e Russia sono le grandi favorite di questo mondiale, no? Assolutamente sì, favoritissima, noi imiteremo la Polonia che ne ha vinto nel maschile in casa. L'Italia è in casa nel femminile, speriamo. La nostra superstar chi è? La nostra superstar è la squadra, direbbe Marco Bonitta. Quante ne so. Questa è da Democristiano. Questa è bellissima. Questa è da Democristiano. Va bene. La Diouf. La chiamano Fiocco di neve, perché... Ne parliamo domani. Seguitela. Ne parliamo domani, intanto ci fermiamo qui. Stasera ovviamente campionato, domani ovviamente tutti convocati, ore 14. Grazie a Franco Pentani, autore di questo programma, Roberto Scaltriti in regia, Claudia Schiattone in redazione. Ciao a tutti. Mister Heat is Malachia. 100% Malachia. Ricordi quando siamo stati in quel quartiere orrendo a comprarti quei vestiti terrificanti? Io avevo paura e tu mi hai detto di non preoccuparmi perché mi avresti guardato tu le spalle. Sì, signora. Questa squadra è la tua famiglia, Michael. Tu devi proteggerla da quei ragazzi, ok? Tony è il tuo quarterback, ci sei? Tu proteggi il suo lato cieco. Quando guardi lui, tu pensi a me. Come guardavi le spalle a me, guardi le spalle a lui. ok? Vai via così. Un palumpa è il tuo tailback. Quando guardi lui, pensi a SJ e a come non lasceresti mai che gli facessero del male, mi hai capito? Allora, proteggerai la famiglia? Sì, signora. Bravo, ragazzo. E ora divertiti.